dico due parole di benvenuto e così inquadro un attimo anche l'iniziativa all'interno delle attività della Biblioteca Provinciale, che ha una sede diversa da questa. Siamo in via Mendola 5 e da un po' di tempo organizziamo le nostre attività, che sono ricorrenti, di settimana in settimana organizziamo più incontri e occasioni di conoscenza anche della nostra biblioteca, perché il fine ultimo è proprio questo: per noi far conoscere la nostra biblioteca, quello che è contenuto all'interno della biblioteca, quello che viene fatto all'interno dell'amministrazione provinciale nell'ambito culturale. Uno di questi progetti è anche questo documentario, che è stato anche realizzato insieme al sostegno del Centro Audiovisivi, che ha sede presso il Centro 13. Ringrazio tantissimo gli nostri ospiti, il signor Barzani e il signor Perez, con cui abbiamo un contatto assiduo da anni, e siamo stati coinvolti, abbiamo fatto delle belle iniziative insieme, c'è una conoscenza che dura nel tempo e la biblioteca coglie queste occasioni, queste proposte che ci vengono fatte, proprio perché sono sempre degli stimoli straordinari per ampliare la conoscenza e anche magari ampliarla attraverso i libri. Era una riflessione che facevo in questi giorni. Il termine migrazione è un termine che possiamo chiaramente definire ormai diffusissimo, non solo dal punto di vista informatico, almeno noi in biblioteca parliamo di migrazione di dati da un computer all'altro, da un software a un hardware, eccetera eccetera, ma anche la migrazione è quella più diffusa, quella che porta persone, popolazione, spostarsi da una parte all'altra sulla nostra piccola terra. E chiaramente qui poi entra anche il concetto di che cos'è una proprietà, di che cos'è un territorio, di come identificarsi, che cos'è un'identità. Insomma, sono tutti argomenti molto aperti, ma che dobbiamo affrontare velocemente, perché la televisione o i media ci bombardano continuamente con delle immagini anche crude di quelli che sono i risvolti della migrazione attuale, ma soprattutto ci dà pochissimo tempo per riflettere invece su quelle che sono le origini e quelle che potrebbero essere anche poi i risvolti futuri, lasciando spazio poi agli interventi e alle manipolazioni probabilmente anche di chi vuole cavalcare certi argomenti in maniera non sempre corretta. Comunque noi abbiamo invece questa occasione di fare una riflessione un po' più lenta, vedere un documentario, sentire delle opinioni, leggere dei libri. Questo ci permette di farci un'opinione nostra più libera, ma soprattutto una riflessione più ponderata di questi che sono temi attualissimi che ci incalzano continuamente. C'è un risvolto storico, chiaramente in questo documentario nessuno è immune, no? Vi cito solo una cosa che mi è capitata di vedere su internet: un'indagine fatta da Momondo, un'agenzia per le prenotazioni, gli alberghi, eccetera, e che intervistava dei ragazzi, dei giovani ragazzi, cioè il vero target di queste agenzie online, chiedendo loro cosa avevano in contrario sul Pakistan o su altri paesi molto distanti da loro. Non so, un irlandese chiedevano qualcosa sul Pakistan, a un norvegese sulla Colombia, eccetera eccetera, e tutti dicevano: ma io insomma questi territori non li conosco, sono un po' restio ad entrare in contatto con la gente. Hanno fatto una mappatura genetica di questi 20 ragazzi inglesi e hanno scoperto che inspiegabilmente, o comunque spiegabilmente, ma bisognerebbe tornare indietro di generazioni e generazioni, ognuno di loro aveva un patrimonio genetico cinese, africano, indiano, eccetera eccetera. Quindi le mescolanze nei secoli, anche da un punto di vista biologico, ci sono in ognuno di noi e non lo sappiamo. Quindi anche questo è un patrimonio che ci portiamo dietro, una migrazione che non sappiamo ricostruire, ma che forse può essere un messaggio anche di buon auspicio, che le mescolanze possano essere anche qualcosa che rafforza. Bene, io vi lascio subito la serata, aprire la serata. Ricordo che noi abbiamo sempre ci portiamo sempre dietro dei libri, se avete piacere di sfogliarli o di venire a vederli in biblioteca. Sappiate che ogni settimana, noi due volte a settimana, lunedì e giovedì, organizziamo degli incontri. Se siete curiosi, guardate il nostro sito oppure passateci a trovare. Un unico avviso questa sera di servizio: alle 7:15 scatta l'allarme qua dentro, dobbiamo abbandonare i locali, quindi dovremo riuscire a stare dentro in questi tempi e defluire entro questo orario. Purtroppo questa sera abbiamo una tabella di marcia un po' compressa, ecco, ma ce la faremo, no? Sicuramente. C'è anche spazio per un dibattito così. Vi ringrazio tantissimo, grazie a voi di essere presenti, di seguire le attività della biblioteca e soprattutto grazie ancora ai nostri ospiti, il signor Franzani e il signor Perez. A voi. Scusate se resto seduto, ma c'ho un po' di mal di schiena, è la gioventù che avanza. Dunque, allora non perdo molto in chiacchiere, ma non commento il DVD perché lascio a voi il giudizio eventualmente positivo o negativo che sia, e quindi mi limito solo a dirvi che questo DVD è nato per caso. Era tempo che avevo quest'idea in mente di fare qualcosa sui profughi, in particolare su quelli che arrivano nel Mediterraneo, se non che non avevo i mezzi, non avevo la spalla per poter realizzarlo. Combinazione: ho trovato Franco Franzan al bar sotto casa, bevendo il caffè, abbiamo chiacchierato e io gli ho detto: senti, io avrei un'idea, tu che ne dici? Avevo saputo che adesso faceva anche delle riprese televisive, però avevo anticipato: di soldi probabilmente non ne vedi, e se ne vedrai per caso saranno molto pochi. Franco ha accettato e così ho cominciato a elaborare un progetto esecutivo, definiamolo in questa maniera. Il progetto è iniziato appunto puntando sugli arrivi in Alto Adige degli extracomunitari attraverso il Mediterraneo. Poi mi sono reso conto che sarebbe stata una noia puntare solo su questo, perché innanzitutto pochi, quasi nessuno dei rifugiati conosce l'italiano, almeno in grado di esprimersi in maniera chiara. E così ho cambiato un po' idee e ho pensato a un DVD che avesse un respiro più ampio, cioè andando indietro nel tempo con le precedenti emigrazioni di popoli e risalendo attraverso i secoli questo filone. E così ho iniziato appunto dal periodo, perché a un certo punto dovevo darmi una scadenza. Ho iniziato con le invasioni barbariche, con l'invasione dei popoli barbari in Italia, che avevano creato un grosso problema, ma non avevano distrutto la nostra civiltà e la nostra lingua. Da lì poi sono passato, diciamo, al periodo più vicino a noi, che è stato quello della partenza di 40 milioni di europei, di cui molti italiani, ma anche tedeschi, francesi, inglesi, verso il nuovo mondo, sia verso gli Stati Uniti, sia verso l'America del Sud, l'Argentina e gli vari stati. Quindi sono passato oltre, andando a vedere cosa era successo durante la Seconda Guerra Mondiale. La Prima Guerra Mondiale aveva in pratica bloccato le partenze dall'Europa verso gli Stati americani, perché l'arrivo di Hitler e Mussolini avevano pensato bene di utilizzare quelle forze in maniera autonoma e propria. Hitler per preparare la guerra, Mussolini perché aveva i grandi sogni anche lui d'oltremare. A quel punto, dicevo, scusate un attimo, ecco, ho esaminato gli avvenimenti successivi, e cioè la Seconda Guerra Mondiale, quando milioni di gente sono stati trasportati in Germania per lavorare. Quando poi la guerra è finita, c'è stato il grande esodo dalla Germania verso i propri paesi, l'Italia, la Francia, Polonia e vari stati che erano stati occupati durante il conflitto. E da lì poi è successo anche un particolare che pochi conoscono e poco è studiato, e cioè oltre 10 milioni di tedeschi che abitavano nei vari paesi dell'est, alla fine della guerra sono stati impacchettati e rispediti in patria, perché né polacchi, né cecoslovacchi, né ungheresi volevano più saperne di avere degli ospiti che parlavano la lingua tedesca. Si arriva così agli anni 70, quando improvvisamente il trend si è invertito dall'Europa verso gli Stati Uniti. Si è verificato il fenomeno dell'arrivo in Europa, e i primi in Italia, ricorderete tutti, sono stati gli albanesi negli anni, ecco, che sono sbarcati a Brindisi. Da lì è cominciato appunto questo arrivo sempre maggiore di stranieri extracomunitari, non solo in Italia ma in tutti i paesi europei. Poi contemporaneamente c'è stato anche un cambio di mentalità. Gli alberghi altoatesini, i ristoranti alberghi, non riuscivano a trovare personale per far fronte alle loro esigenze, che parlasse naturalmente anche il tedesco, perché molta clientela viene dalla Germania. E quindi ecco che si sono aperti i mercati dell'est e c'è stata, non dico un'invasione, ma comunque una grande presenza di persone che venivano soprattutto dalla Polonia, dalla Cecoslovacchia, dall'Ungheria, dove si insegna il tedesco, e quindi qui andavano benissimo per servire nei bar, nei ristoranti e negli alberghi, che puntavano molto sulla clientela germanica. E quindi qua in pratica il ciclo si è chiuso. Dunque, concludendo, perché non vi voglio annoiare oltre, vorrei fare un piccolo ringraziamento innanzitutto alla dottoressa Lucia Piva, che conduce l'assessorato provinciale alla cultura, ancora la dottoressa Romy Vallazza, la quale cura gli audiovisivi. Un ringraziamento agli audiovisivi che ci hanno fornito del materiale d'epoca che è stato inserito nel DVD. Non solo, ringraziamo l'ultima ancora la Marina Militare e la Guardia Costiera, che a loro volta ci hanno fornito gratuitamente i film che vedrete, e cioè i loro interventi nel Mediterraneo per salvare delle vite umane. Ecco, direi che con questo ho concluso. Prego. Sì, credo che dopo quello che ha detto Giovanni ci sia ben poco da aggiungere. Ha spiegato un po' tutta la fase di elaborazione. Una cosa da aggiungere, credo molto importante, invece, è che questo è un documentario reale, cioè non è un documentario politico che tiene da una parte o dall'altra, mi sembra, ma fa vedere la realtà di quello che noi siamo riusciti a percepire, senza dare colorazioni di qualsiasi genere. E questo è molto importante perché al giorno d'oggi si vedono in televisione dibattiti, si vedono tantissime cose che poi a casa si commentano in modo positivo, in un modo negativo. E in questo caso non ci sono commenti, questo è quello che noi abbiamo vissuto e siamo riusciti ad avere. E dico questo perché nella realtà della televisione il giorno d'oggi che si vede qualcosa di reale è molto poco. Abbiamo tantissime telenovelle, abbiamo tantissime cose, tutto è montato a tavolino. Non credete quando vedete forum, quando vedete le telenovelle, non c'è niente di vero, è tutto predisposto e montato a tavolino. Questo è montato sì, ma è montato su una realtà che noi abbiamo vissuto e che vi stiamo proponendo. Grazie signore. Faceva un gran caldo, sembrava di soffocare, Ho chiesto in giro e qualcuno mi ha indicato una spiaggia ove avrei potuto imbarcarmi per la mia meta, l'Italia. Con i miei ultimi soldi, $2,000, ho dovuto pagare i padroni della barca diretta in Italia. Era un vecchio barcone sul quale siamo saliti 250. Eravamo uno stretto all'altro. C'erano uomini, donne e bambini che piangevano perché avevano paura. Ad un certo punto il motore della barca non funzionava più. Eravamo in mezzo al mare e anch'io ho avuto paura. Poi è arrivata una nave militare italiana che ci ha salvato e ci ha portato in un porto italiano. Saremo sempre grati ai marinai italiani che ci hanno salvato ed aiutato, dandoci anche da bere e da mangiare. L'ondata di migranti diretti verso le coste italiane ha offerto l'occasione alla parte politica italiana con tendenze xenofobe di iniziare una campagna di allarme nell'opinione pubblica italiana. La richiesta del gruppo xenofobo è stata subito categorica: respingere con la forza tutti coloro che tentano di raggiungere le coste italiane. Un atteggiamento, quello della Lega, iniziato dal suo fondatore Bossi e che prosegue ancora oggi. Gli esponenti della Lega dimenticano, per ignoranza o calcolo politico, le tante migrazioni che si sono succedute sin dai lontani secoli. Per rinfrescare la memoria al manipolo di xenofobi, ecco una telegrafica sintesi visiva di queste lontane migrazioni e del loro assorbimento dal popolo italico. Il primo popolo a spingersi a sud, venendo dalle fredde regioni del Mar Nero, era stato quello dei Visigoti. Nel 410 d.C. i Visigoti avevano raggiunto e saccheggiato Roma. Era stata la fine dell'impero romano d'Occidente. I Visigoti avevano però aperto la strada ad un altro popolo, quello dei Vandali. Cacciato dagli Unni, dalle terre ove abitava nell'Europa centrale, il popolo dei Vandali si era diretto verso sud, raggiungendo e saccheggiando a sua volta Roma nel 455 d.C. Ai Vandali avevano fatto seguito, nell'invasione delle terre del sud, altri popoli. Il più agguerrito era stato il popolo degli Ostrogoti, proveniente dai Balcani. Dalla Scandinavia era sceso verso sud il popolo dei Normanni. Nella lunga migrazione i Normanni si erano spinti fino all'Italia meridionale, ove esistono ancora le loro tracce. Ad un certo punto, però, anche i Normanni avevano dovuto confrontarsi con un altro popolo in movimento, gli Arabi. Nella loro marcia espansiva, gli Arabi, di fede maometana, avevano conquistato, oltre il Nord Africa, quasi tutta la Spagna e la Sicilia. Ma anche loro si erano scontrati con un altro popolo in marcia alla conquista dell'Europa, i Turchi Ottomani. In conclusione, a partire dal 500 d.C., i secoli erano stati caratterizzati da continue migrazioni di popoli verso quella che oggi è l'Italia. Ma veniamo ad un tempo più vicino a noi. Mentre sin dal lontano passato i popoli in cerca di nuove terre si erano mossi dal nord verso il sud dell'Europa, a partire dalla seconda metà del 1800 il flusso migratorio aveva cambiato rotta. Fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, i flussi migratori più consistenti si erano diretti dall'Europa verso l'America del Nord, l'America del Sud e l'Australia. A rendere possibili le migrazioni di massa oltre gli oceani, le nuove navi a vapore che avevano sostituito i vecchi, pericolosi e lenti velieri. Ad affrontare l'attraversamento dell'oceano erano stati 40 milioni di poveracci da tutta Europa. A volte il viaggio avveniva in condizioni inumane. In particolare, tra il 1860 e il 1885, i 10 milioni avevano abbandonato l'Italia per trasferirsi in altri stati europei o nelle Americhe. All'inizio, in prevalenza avevano scelto di emigrare persone provenienti dalle province del nord, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Piemonte. Nei due decenni successivi erano emigrati da tutta Italia in 9 milioni, ma il primato era andato alle regioni meridionali, con quasi 3 milioni di emigranti. L'emigrazione oltreoceano si era diretta in particolare verso l'Argentina ed il Brasile. Poi in molti avevano puntato le loro speranze verso gli Stati Uniti. Lo Stato italiano non aveva mai ostacolato questa immigrazione di massa perché non era in grado di reggere ad una così forte pressione demografica. Certo, molti piccoli paesi si andavano spopolando. L'agricola, il cui reddito non era più sufficiente a sfamare una famiglia, in cui spesso si contavano 10 figli, ora pesava sulle spalle degli anziani che erano stati abbandonati in patria. Poi le navi erano diventate più veloci e di dimensioni via via maggiori e di viaggi meno disagevoli. A spingere la gente ad emigrare le motivazioni erano rimaste le stesse che già nel passato avevano spinto milioni di persone a lasciare la loro terra, fuggire dalla povertà e dalla fame in cerca di fortuna. La difficile vita degli emigranti aveva offerto lo spunto per diversi romanzi. In Italia, in particolare, era stato il tema per un capitolo del libro Cuore di De Amicis. L'ambientazione dell'episodio dagli Appennini alle Ande è da Torino tra il 1878 e il 1886, anno della pubblicazione. Nel libro si raccontava di un ragazzino, Marco, che da solo partiva da Genova per recarsi a Buenos Aires, dove la madre era andata a lavorare e si era ammalata. Per molti decenni, questo lacrimevole racconto aveva fatto piangere generazioni di ragazzi. Giriamo pagina. Affermare l'esodo dall'Europa era stato lo scoppio della Prima Guerra Mondiale il 28 luglio del 1914. Tutto era iniziato con un attacco della Germania alla Serbia, in seguito all'uccisione dell'arciduca Francesco Ferdinando d'Austria, in un attentato a Sarajevo un mese prima, il 28 giugno 1914. Da una parte erano schierate la Germania e l'Austria-Ungheria e poi la Turchia, dall'altra Gran Bretagna, Francia, Russia e nel 1915 l'Italia e gli Stati Uniti. Alla fine della guerra, nell'autunno del 1918, si erano contati circa 10 milioni di morti. Il primo conflitto mondiale aveva bruscamente interrotto l'imponente migrazione dall'Europa verso le Americhe. In Italia e in Germania lo avevano poi bloccato le iniziative dei dittatori che si erano impadroniti del potere, Mussolini e Hitler. Ambedue avevano avviato un gran numero di opere pubbliche, sia pur con intenti diversi. Hitler aveva iniziato la costruzione di una rete autostradale per motorizzare il popolo, ma in realtà le autostrade sarebbero servite per consentirgli di spostare velocemente le truppe e i carri armati da un futuro fronte all'altro. Contemporaneamente Hitler aveva privilegiato anche l'industria pesante per riarmare la Germania. Ancora un po' di anno e Hitler era passato all'azione. Prima aveva annesso l'Austria alla Germania il 12 marzo del 1938, poi aveva invaso i Sudeti in Cecoslovacchia e quindi tutta quella nazione. Sono trascorse da poco le 4 del mattino del 1 settembre del 1939, quando la vecchia corazzata germanica Schleswig-Holstein bombarda dal porto di Danzica la vicina stazione navale polacca di Westerplatte. Alle 4.45 di quel giorno le truppe motorizzate tedesche attraversano il confine e invadono la Polonia. Mantenendo fede al patto di alleanza, il 3 settembre la Gran Bretagna e la Francia dichiarano guerra alla Germania. È l'inizio del secondo conflitto mondiale. Il 17 settembre l'Unione Sovietica invade a sua volta la Polonia orientale. Il 19 settembre russi e tedeschi si incontrano a Brest-Litovsk. Il 5 ottobre gli ultimi polacchi si arrendono. Nella primavera dell'anno seguente, il 1940, l'esercito germanico attacca il Belgio, l'Olanda e la Francia occupandole. Di vittoria in vittoria le truppe tedesche occupano quasi tutta l'Europa. L'unica a resistere è l'Inghilterra. L'Air Force, tra luglio e la fine di ottobre del 1940, riesce a infliggere gravi perdite ai bombardieri tedeschi, dissuadendo Hitler da invadere la Gran Bretagna. Nel suo delirio di potenza, il 22 giugno del 1941, Hitler ordina l'operazione Barbarossa, decidendo di invadere la Russia. L'esercito bolscevico ripiega subendo grosse perdite. Prima di ritirarsi, i russi bruciano case e raccolti. ma l'esercito germanico sembrava invincibile, solo Leningrado resisteva. La Wehrmacht nel frattempo riesce a spingersi fino alla periferia di Mosca e tocca nel dicembre del 1942. Con la fine della guerra, nel maggio del 1945, l'Europa aveva conosciuto delle migrazioni di proporzioni bibliche. Le sue strade erano state intasate da decine di milioni di persone. Dai lager nazisti, liberati dalle truppe alleate, gli ex prigionieri di guerra, italiani, francesi, polacchi, russi, inglesi e di altre nazioni, si erano diretti con ogni mezzo verso la loro patria. A questa massa di reduci si erano mescolati milioni di ex lavoratori, rastrellati dai tedeschi nei paesi occupati, condotti in Germania e ora a loro volta liberati. Sulle strade europee si erano poi aggiunte le colonne di ebrei e di rom che erano miracolosamente sopravvissuti nei campi di sterminio nazisti o provenienti dai paesi dell'est. A dirigersi in senso opposto quasi 14 milioni di donne, bambini, anziani, tutti di cittadinanza o comunque di origini tedesche, che avevano dovuto abbandonare in tutta fretta case e terreni. Cacciati in malo modo da Pomerania, Prussia, Slesia, Sudeti e da altri territori dell'est, attribuiti con la fine del conflitto a Polonia, Cecoslovacchia, Ungheria, Romania, Jugoslavia. Circondati dall'odio, a piedi o su vecchie carrette trainate da cavalli o in treno nei vagoni merci, erano stati costretti a cercare una nuova sistemazione in Germania. Con sé portavano poche cose. Era stato il prezzo che avevano dovuto pagare per aver seguito, volenti o nolenti, la follia di Hitler e dei suoi sanguinari assassini. Su questo difficile periodo, ecco la testimonianza della giornalista Eva Klein di Bolzano. Da bambina, subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, aveva dovuto abbandonare Praga, dove viveva con la mamma sul tirolese e il papà cecoslovacco. Sono nata a Praga, quando la Cecoslovacchia era Cecoslovacchia, e sono venuta via da lì nel giugno del 1945, quando oramai Praga era occupata dai russi. Quando alla fine della guerra si sperava che arrivassero gli americani, però erano arrivati prima i russi, abbiamo potuto star lì ancora un mese perché mio padre si era rifiutato durante l'occupazione di assumere la cittadinanza tedesca. I tedeschi che alla fine della guerra vivevano in Cecoslovacchia sono stati presi dai loro appartamenti e messi in campi di specie di concentramento. La costruzione del muro di Berlino il 13 agosto 1961 era stato uno dei momenti più visibili della guerra fredda in atto tra i paesi del blocco sovietico e quelli occidentali. Il muro lo aveva voluto la Germania Est per impedire la costante fuga di persone verso la Germania federale. Parecchi tentativi di fuga erano costati la vita a circa 200 persone, uccise dalle guardie della DDR. Le Belgio, Svizzera e dall'inizio del 1955 la Germania. Contemporaneamente era proseguita l'emigrazione degli italiani oltreoceano, ma anche in misura minore rispetto alle ondate di fine 800, primi anni del 900. Le lette erano rimaste quelle classiche dei loro padri o nonni, in Nord America, in Sud America, con preferenza per il Brasile e Argentina. Una minoranza aveva scelto di emigrare in Australia. I viaggi nel frattempo erano diventati molto meno disagevoli che in passato, grazie alla nuova flotta varata in Italia. I transatlantici, battenti bandiera tricolore, erano diventati dei colossi del mare. Gareggiavano con le flotte estere per la velocità, eleganza e servizi di bordo. In particolare si distinguevano per il vitto preparato dai maggiori chef del momento. I decenni intanto erano trascorsi. Con la caduta del muro di Berlino nel 1989 e il disfacimento del regime comunista in Russia, le tensioni tra est ed ovest erano cessate, almeno per il momento. Negli anni 90 altri problemi però si sono affacciati all'orizzonte. Alle tradizionali migrazioni dall'Europa verso le Americhe si andavano sostituendo le migrazioni verso l'Europa. Il segno concreto dell'inversione di tendenza era venuto da un primo massiccio afflusso di persone che fuggivano dall'Albania verso le coste italiane. Nel febbraio del 1991, due navi ed altre imbarcazioni minori, partite da Durazzo con circa 27.000 persone a bordo, erano approdate nel porto di Brindisi. Per far fronte all'emergenza, un gruppo di questi fuggiasti era stato dirottato in Alto Adige e precisamente in una caserma Lubiaco. Da quel momento molti anni sono trascorsi e la comunità albanese approdata nel tempo in Alto Adige ha eletto come seconda patria il Sud Tirolo. Nel 2015 sono state contate 5.200 persone di origine albanese, delle quali quasi 2.500 residenti a Bolzano. Ecco la testimonianza di uno degli albanesi giunto clandestinamente 20 anni fa in Italia, oggi perfettamente integrato nella realtà altoatesina. Io mi chiamo Armando Tacco, sono albanese, sono nato e cresciuto ovviamente in Albania. La mia città si chiama Elbasan. Sono arrivato più o meno in questo periodo, era fine agosto e inizio settembre del 92 da clandestino. A Bolzano sono finito perché era uno dei posti dove avevo degli amici che mi hanno dato una mano all'inizio, e penso che la ragione perché sia rimasto qua, perché poi alla fine ho quasi vissuto sempre a Bolzano, dal 93 ho fatto i documenti, non mi sono più spostato così tanto, se non per ferito. La ragione è perché qui ho trovato lavoro, ormai sono anche cittadino italiano da 6-7 anni, anche quello ho fatto molta fatica ad avere la cittadinanza. Di oltre un centinaio di questi profughi albanesi, giunti in Italia nel 1991 e ospitati in una caserma a Dubiaco, si era dovuto occupare il dottor Lambis, oggi direttore dell'assessorato provinciale alla cultura e lingua italiana. La storia dell'arrivo degli albanesi in Alto Adige è quella del 1991, era l'ondata di Brindisi, quella famosa della nave Vlora. Nel 91 mi occupavo degli affari legislativi del commissariato del governo, in un'ora dovevo raggiungere Monguerco e gestire la trattatura di una caserma in disuso per 400 profughi che non avevano addosso niente. Quella prima immigrazione era l'immigrazione proprio divisa in due, c'era il meglio dell'Albania, intellettuali, laureati, professori, e anche la parte insomma che aveva precedenti penali, eccetera. La parte diciamo più ingestibile, con pochi soldi, fu convinta a tornare a casa. E invece per quasi 300 di questi giovani, perché in realtà erano giovani, con un lavoro faticosissimo e grazie anche ad alcuni di loro che scrivevano molto bene l'italiano, nella vita di caserma, con colloqui infiniti tra loro e le imprese, siamo riusciti insieme con l'aiuto della provincia allora trovare lavoro quasi tutti. Quindi esiste una comunità molto forte a Bolzano, di quella prima generazione, persone comunque tutte inserite molto bene nel mondo del lavoro, e in Busteria, dove sono rimasti e alla fine sono riusciti anche a integrarsi abbastanza bene. Con un grande impegno del paese, del sindaco di Monguelfo allora, si chiamava Pal, e per soccorrere, aiutare e in molti casi anche trovare lavoro per queste persone. Cioè proprio il paese e tutta la valle non furono chiusi a questo arrivo forzato, erano quasi 400. Uno dei punti di riferimento per gli immigrati che arrivano in Alto Adige e che vogliono fermarsi in questa terra sono sempre stati, e lo sono ancora oggi, gli uffici del commissariato del governo. Gli uffici hanno sede in un edificio secondario dell'ex palazzo ducale Fries. È qui che vengono rilasciati i documenti con il permesso di soggiorno necessario per poter lavorare, per l'eventuale assistenza medica e per molte altre cose. Commissariato del governo a parte, vari assessorati, sia di lingua italiana che tedesca, della provincia autonoma di Bolzano, operano in favore degli stranieri, dall'inserimento all'assistenza per ottenere una casa, un aiuto per i figli. Mi chiamo Vera Nicolusilec e sono la dirigente del Dipartimento di Diritto allo Studio, Cultura Tedesca ed Integrazione. Cioè, ci occupiamo di diverse associazioni, enti che si occupano di stranieri e dell'integrazione degli stranieri. E lì cerchiamo di creare una rete di collaborazione. Cerchiamo di controllare, di fare ricerca negli anni sull'integrazione dei stranieri. Lo sbarco in massa degli albanesi era stato solo un assaggio di quanto sarebbe avvenuto negli anni 2000. Dai paesi dell'Africa, del Medio Oriente, dell'Asia sono cominciati ad approdare in Italia migliaia di disperati che, sui vecchi e malandati barconi, sfidano le onde del Mediterraneo in fuga da guerre, persecuzioni, miseria o semplicemente in cerca di una vita migliore. Giunti in Italia, nella ricerca di offrire loro una sistemazione provvisoria, alcune centinaia di profughi, già nel 2014, erano stati dirottati in una struttura abbandonata nella zona dello scalo ferroviario ai piani di Bolzano. Nella primavera del 2015, l'ondata di migranti dal Medio Oriente e dall'Africa si era trasformata in una marea. Schiavi dei mercanti di uomini, in alcuni casi gruppi di migranti sono stati costretti a salire dalle coste libiche su fatiscenti barconi in un numero eccessivo e quindi andare incontro dei naufragi. Si calcola che solo nel 2015 gli annegati siano stati circa 3.000, tra cui molti bambini. Da notare che molti di coloro che sbarcano dai barconi in Sicilia non intendono però rimanere in Italia, ma cercano di raggiungere amici o parenti in altri stati europei, soprattutto in Germania o in altri paesi del nord. Per questi migranti il Brennero è quindi diventato un punto di transito obbligato delle forche caudine, mentre infatti in un primo tempo nessuno aveva pensato di contrastare più di tanto il flusso di immigrati che viaggiavano sui treni diretti al nord. In un momento successivo sono iniziati dei controlli più rigorosi da parte di pattuglie formate da poliziotti italiani, austriaci e tedeschi. Così alla stazione ferroviaria di Bolzano si è iniziato ad impedire ai passeggeri di pelle scura di salire sui treni diretti al nord e a far scendere dai convogli quelli in transito sempre diretti al nord. L'apertura, seguita da improvvise chiusure dei confini, ha creato non poco caos. Per fare un esempio, il 26 maggio 2015, con un'ulteriore stretta di freni, la Germania aveva sospeso gli accordi di Schengen, ufficialmente per 2 settimane, chiudendo praticamente le sue frontiere. A quel punto, le centinaia di profughi che speravano di poter proseguire verso nord sono rimasti bloccati a Bolzano o al Brennero. Una situazione drammatica che inizia nei paesi di origine e che in Libia viene gestita da 2 mercanti di schiavi che l'Espresso ha indicato nell'etiope Ermias, ma soprattutto in un libico Medane, che avrebbe accumulato molte decine di milioni di dollari. La sistemazione provvisoria individuata dalla provincia per i profughi fermi a Bolzano è stata l'ex hotel Alpi, chiuso da oltre un anno e messo a disposizione dall'attuale proprietario, uomo d'affari austriaco Benko. Per gestire concretamente i vari problemi legati ai profughi in transito o bloccati a Bolzano o al Brennero, la provincia ha utilizzato con la Caritas gli uomini e le donne della Onlus Voluntarius. Una situazione, quella dovuta ai profughi, non semplice da gestire, come ci descrive. Allora, la situazione in stazione dalla metà di aprile ad oggi vede un arrivo costante di un centinaio di persone mediamente al giorno. Sono tutte persone in fuga da paesi dove sono presenti dei conflitti, dove ci sono delle guerre, dove ci sono delle presenze di estremismo religioso che impone a queste persone, per salvare la vita, di abbandonare le loro case, il loro paese e cercare un sogno migratorio, la possibilità di ricominciare la vita. Dopo la metà del 2015, una situazione analoga a quella esistente nel braccio di mare mediterraneo tra Libia e la Sicilia si era andata creando in Oriente, nei tratti di mare tra la Siria, la Turchia e la Grecia. Masse di profughi hanno portato il mare su imbarcazioni fatiscenti. Anche qui i naufraghi si sono ripetuti con migranti affogati, tra cui numerosi bambini. Una massa di gente in fuga dalla guerra che, nel suo cammino verso i paesi del nord, aveva incontrato l'ostilità di alcuni paesi, tra i quali l'Ungheria. Negli anni 90 una feroce guerra civile aveva insanguinato la Bosnia Erzegovina, le cui ferite non sono ancora rimarginate del tutto. Tra quanti provengono da quella terra vi è Jusip Merian, cittadino bosniaco. Mi chiamo Jusip Merian, ho 44 anni, provengo dalla Bosnia Erzegovina. Sono di religione Forahali, islamica. Sono sposato, ho tre figli che vivono qui a Bolzano, sono nati a Bolzano, seguono sì, la cultura, seguono i figli, ma si sono integrati al 100% in Trentino Alto Adige. Siamo arrivati a Bolzano per la necessità. Se Merian come Tritan erano arrivati in Italia da clandestini, ci sono molti altri stranieri residenti in Alto Adige che hanno varcato il nostro confine con tutte le carte in regola. Ad oggi, 2015, gli stranieri residenti in Alto Adige, provenienti da 132 paesi del mondo, ammontano circa 45.500. Con la democratizzazione degli stati dell'est è aumentato l'afflusso in Alto Adige di lavoratori provenienti da quei paesi, in particolare da Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacca. Nella maggioranza dei casi il loro impiego è stato ed è ancora oggi nei settori alberghiero e della ristorazione. All'origine di questa offerta di lavoro sul Tirolo, la mancanza di personale locale di madrelingua tedesca, impegnato in attività proprie. A favorire la preferenza ad assumere ungheresi, cechi, slovacchi e polacchi è la diffusa conoscenza della lingua tedesca, che in quei paesi viene insegnata a scuola. Tra gli alberghi e i ristoranti altoatesini che reclutano il personale dei paesi dell'est vi è il Seegarten, al lago di Caldaro. Al Seegarten abbiamo incontrato una ragazza polacca. Sì, penso cammina, mi penso che mi ha conosco un'estate in Strapovizza. Sempre al ristorante Seegarten di Caldaro abbiamo poi incontrato un giovane cameriere ungherese. Mi chiamo Szabolcs Baranyai, sono ungherese, ho 35 anni. Sono venuto all'Alto Adige l'anno 2000. La prima stagione ho fatto in Alta Badia, vicino a Corvara. Era tre mesi e poi ho imparato anche la lingua tedesco. Potevo venire qua in Caldaro. Nuovamente al Seegarten una simpatica e un po' timida ragazza slovacca. Io sono della Slovacchia, sono della Giombeo. lingua italiana ho imparato qui in Italia, e lingua tedesca ho imparato in Slovacchia. Io sono venuta 6 anni fa. In Repubblica Slovacchia adesso è troppo difficile, non c'è lavoro e seguire già in America. Allora è troppo difficile. No, oggi se mi trovo bene, sono famiglia, qua mia sorella sono qui, allora mi trovo bene qui. Mia sorella ha lavorato già qui, in Segaton, allora mi ha trovato lavoro lei. Io sposerò un uomo, non ce l'ho problemi con uomo qui. Sono gente come in Slovacchia. Da rilevare che si è stabilita da tempo, sempre in Alto Adige, una comunità cinese composta da circa 1 miliardo di persone tra uomini e donne. Secondo la loro antica tradizione, i cinesi lavorano prevalentemente nei settori della ristorazione e nella gestione di bar. In misura minore si dedicano al commercio di abbigliamento e bigiotteria. Discreti, un po' paurosi, cercano di passare inosservati secondo il loro stile. In generale, infatti, non amano essere intervistati o ripresi dalle telecamere. Chiamo Tian Fei, è nato in Cina. Perché è in provincia? Sì, in Cina ho lavorato. Quando mi arrivate in Italia, sono venuto prima in città di Bolzano e subito piacendo molto questa città. A Bolzano è 18 anni. Nostra cliente è un po' misto, però di più da italiani. Per il momento non voglio tornare in Cina perché siamo ancora giovani. Dopo pensione vediamo, non so sicuro, decido fermo qui o in Cina. Ho 3 figli, la prima figlia, la Monica si chiama, la dopo 2 maschi, Alex e Andrea. Da sottolineare che i cinesi che vivono in Italia ci tengono all'istruzione dei figli. Sono nata a Bolzano a 13 anni, vado a scuola alle arti medie. E a casa dei miei genitori parliamo sempre in cinese e invece con i miei fratelli a volte in italiano. Conosco il tedesco perché nella scuola che vado si studia anche il tedesco e ho fatto la gente tedesco. Non ho problemi con i miei compagni di classe e neanche con i professori. E l'ultima volta che sono stata in Cina non mi è piaciuto tanto perché mi dovevo abituare intanto all'aria che era più inquinata e umida e perché era più sporco, non era molto come l'Italia. Due i punti di riferimento per i russi che abitano a Merano: l'associazione Borodina, che ha la sede in piazza dell'Arena 10, e la chiesa greco-ortodossa di Maialta. Sono Ilona Gorgieva, sono nata in Georgia, a Tbilisi, ho 41 anni. Sono andata dalla Russia perché il mio marito, allenatore giocatore, avevo trovato qua in Italia il lavoro come allenatore giocatore. Venuta a Merano perché il mio marito aveva trovato proprio lavoro proprio a Merano. Sono cittadina russa, mi piace sempre tornare in vacanza a Merano, in Russia, ma preferisco vivere qua in Italia. Mi chiamo Emilia Manukian, sono nata a Krasnodar in Russia, ho 15 anni, gioco tennis tavolo con mio padre che è il mio allenatore, ho vinto anche i campionati italiani, non ho mai avuto problemi con i compagni di scuola perché li trovo tutti simpatici. In Russia ho solo il nonno. Sempre dalla Russia è arrivata a Bolzano Alisa Kortunova, studentessa. Dopo aver completato l'università a Mosca, frequenta dei corsi all'Università di Bolzano. Mi chiamo Kortunova Alisa e ho realizzato il mio studio in Russia. In Russia, io ho studiato l'università di Bolzano. Sono nata in una regione vicino a una città di Shishin, in una regione poi ho studiato all'Università Statale di Mosca, Romanovsk. Ho studiato informatica, computer science, attualmente sto svolgendo un dottorato. comunque computer science, quindi informatica per l'università di Bolzano. Dall'Ucraina, una terra dilaniata da una feroce guerra civile, proviene invece Anna Zavodowska. Anna spesso si reca a Termopoli per far visita ai due nipotini che abitano con i genitori in quella città. Io sono Anna di Ucraina, Anna Zavodowska, arrivata in Italia 1999 anni. Lavora come badante, dopo è arrivato mio figlio qui, dopo sposato, qua in Italia dice mamma io voglio stare qui in Italia, perché a papà morto e non ne voglio più tornare, voglio stare qua, ho fatto la ragazza bielorussa, c'è sposato, c'è nipote, adesso due nipotini, e io sono contenta perché ho trovato tanti amici, quindi tanti italiani che mi hanno aiutato, che hanno fatto tante cose per me. E questa è la seconda terra di mia vita. A Bolzano, via Garibaldi e nella zona limitrofa si è registrata la maggior concentrazione di esercizi commerciali gestiti da persone di religione islamica. Non a caso in via Garibaldi, perché si trova in prossimità della stazione ferroviaria, classico luogo di arrivo di ogni nuovo venuto. Negozi e bar situati in quella zona rimangono ancora oggi punti di riferimento per molti musulmani. È da Dibandare, nel Kurdistan iracheno, che proviene Mohammed Deisi, di religione musulmana, rifugiato politico in Alto Adige, assieme al suo coetaneo Yunus Naoki, che proviene da Muhammad. Adesso 3 anni ho abito in Italia, asilo politico. Sono presidente di un partito di opposizione iraniana che organizzo popolo di questo partito in Italia. Se l'Ucraina ha conosciuto momenti drammatici, in Kurdistan è stato molto peggio. Quotidiani e televisioni di tutto il mondo hanno infatti dato largo spazio alle vicende del popolo curdo impegnato in una guerra di sopravvivenza contro i feroci seguaci del califfato islamico. Diversi i paesi in cui i curdi hanno impugnato le armi, tra i quali la Siria e l'Iran. Io sono Paola Camilla Sanchez, mi trovo qua in questa città di Lozano da circa 12 anni, nata in Perù, città di Arequipa, che è una città che ha alcune somiglianze con la città di Lozano. Io sono infermiera, ho lavorato per circa 12 anni a livello ospedaliero. Io sono in questo momento sono presidente della consulta in di Bolzano, per cui il mio contatto con straniere delle diverse etnie continuo lavoro, continuo sentire anche delle diverse problematiche di loro. È interessante perché si impara anche parte un po' della cultura delle diverse etnie e mi piace organizzare questa sera. Un quadro generale sulla situazione degli stranieri residenti in Alto Adige lo traccia il vicepresidente della giunta provinciale di Bolzano, Tommasini. La presenza di alunni e studenti con background migratorio è certamente in aumento anche nella nostra terra, anche in Alto Adige. In particolare nelle nostre scuole registriamo ogni anno una percentuale maggiore di alunni appunto che hanno, sono nati in un paese straniero oppure sono figli di cittadini appunto nati in un altro paese ed emigrati per ragioni di lavoro o comunque per necessità. Anche qui bisogna subito fare una differenza. I bambini, i ragazzi, figli di cittadini stranieri e che sono nati in Italia, spesso hanno, quando arrivano a scuola, già competenze linguistiche, sociali e diciamo anche un background di conoscenze, di relazioni, per cui si inseriscono spesso con facilità nella nostra scuola. Diversamente, qualche problema c'è quando noi abbiamo ragazzi che arrivano, non essendo nati qua, ma arrivano nel corso della loro vita, magari arrivano in età adolescenziale e però hanno ovviamente un diverso livello anche di insegnamento, di apprendimento. E quindi è chiaro che inserire un ragazzo già di una certa età, già adolescente, in una classe inferiore con bambini e ragazzi di età inferiore, qualche problema lo crea, e quindi questi sono gli elementi che vanno gestiti. Naturalmente c'è anche il tema di non creare, questo per me è molto importante, classi in cui ci siano solo bambini e ragazzi con background migratorio o solo bambini autoctoni, per questo sarebbe sbagliato sia per l'interazione, ma anche creerebbe naturalmente delle percezioni di classi ghetto. Questo noi non lo vogliamo assolutamente. Come ultimo abbiamo sentito il vescovo Mosner che lancia un appello a tutti i sudtirolesi affinché da buoni cristiani accolgano gli stranieri che lasciano la loro patria per sfuggire a persecuzioni, violenze, fame. Possiamo chiudere gli occhi. Anzi, proprio come Chiesa, proprio come cristiani, dobbiamo vedere in loro non soltanto dei numeri, ma delle persone concrete. Si tratta di uomini, di donne, di bambini concreti. Dobbiamo interessarci per le loro storie. Non sono numeri, ma hanno un volto concreto. La Guarige è una terra chiamata alla condivisione. È una terra dove, già per motivi storici, i tre gruppi etnici sono chiamati a vivere insieme. Adesso sì, avremo tra di noi anche altre culture, altre religioni. E proprio per questo è molto importante non rifiutare il dialogo, ma entrare in un dialogo aperto e rispettoso. Questo DVD, chi vuole può avere una copia di questo. Grazie. bravo.